Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 7 marzo 2015. Italia in prima fila per la nuova caldaia europea super risparmiosa. Missione compiuta. Il progetto europeo Heat for You, finanziato dall'Unione Europea e guidato dall'azienda italiana Robur, ha raggiunto il suo risultato, lanciando a livello continentale un modello di caldaia a pompa di calore per abitazioni mono e bifamiliari che è in grado di garantire un risparmio del 40% rispetto alle caldaie a condensazione. Il progetto, coordinato dall'azienda bergamasca guidata da Benito Guerra, ha coinvolto colossi europei del settore, da E.ON a GDF Suez fino a British Gas, ed è stato finanziato con 10 milioni di euro da Bruxelles. Robur vanta infatti diversi brevetti sulla caldaia a pompa di calore ad assorbimento, che funziona per il 70% a gas e per il restante 30% sfruttando il calore ambientale. Fin qui la notizia del 7 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Luigi Tischer, direttore sviluppo strategico di Robur, spiega così il progetto della caldaia a pompa di calore ad assorbimento. La pompa di calore assorbimento ha la capacità di prendere l'energia primaria, quindi alimentata per esempio a gas metano, e con un ciclo termodinamico attirare energia dall'ambiente e rendere disponibile all'utente finale la somma di queste due energie, quella bruciata del gas metano più l'energia ricavata dall'ambiente. Tutto questo viene fatto con efficienze quindi molto più elevate di quello che potrebbe fare una caldaia a condensazione e con una semplicità di funzionamento superiore a quello che potrebbero fare per esempio le pompe di calore elettriche, in quanto non richiede obbligatoriamente né l'utilizzo di sonda geotermica da una parte né l'utilizzo di pavimento radiante dall'altra. Quindi è una tecnologia che ben si sposa con le esigenze della parte preponderante degli edifici esistenti. Heat for You vuole trasportare questa tecnologia dall'ambito in cui oggi viene utilizzata, che è il mondo del light commercial, cioè il mondo delle applicazioni professionali, alberghi, scuole, pubblica amministrazione, industria, al settore della villetta singola piuttosto che della villetta schiera o delle case uni o bifamiliari, mantenendo inalterati i benefici che questa tecnologia offre in termini proprio di riduzione dei consumi energetici, riduzione delle emissioni, quindi CO2, e riduzione di quelle che possono essere le emissioni di particolato piuttosto che riduzione di NOx, tipico dei sistemi di combustione basati su, per esempio, per la microcogenerazione. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.